Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato. Ciascuno di noi ha un paese mio, un luogo che porta nel cuore, nel bene o nel male. Può essere una città, un paese, un paesello, ma anche un cortile, un condominio, non importa. Quello che conta è che lo sentiamo nostro e ci sentiamo un po' suoi. Insomma, anche se non ci siamo scelti, ma ci siamo trovati per caso, ci sentiamo legati e sappiamo che ci apparteniamo. Qual è il vostro luogo? Da dove venite? Restate, mi raccomando, perché da questa domanda, che suona come un invito a un ritorno alle radici, partiremo per andare lontano. Allora, la storia inizia con Sono nato. Sono nato in un paesino che non aveva neanche un semaforo, ma in compenso aveva un campanile così alto che lo vedevano persino i contadini dei paesi intorno, da Irago, Borsano e Busto Garolfo. Quelli con la vista migliore, guardando il suo orologio, sapevano che era ora di andare a casa a mangiare la minestra. Gli altri zappavano mezz'ora in più. Il mio paesino si chiamava Villa Cortese e aveva un parrucchiere per donne, un macellaio, una merceria, un tabaccaio, un parrucchiere da uomo, la Luigia che vendeva il pane, il latte e il salame, il bar per quelli che andavano in chiesa, il bar per quelli che non andavano in chiesa, il bar dove c'era la Gazzetta dello Sport, un parroco molto severo, un negozio di abiti da sposa, un prete di nome Don Giancarlo, una bocciofila e un oratorio più bello del posto più bello del mondo. Un paese raccontato dagli occhi di un bambino alto come un vaso di gerani. Questo bambino adesso è un uomo ed è qui davanti a me e lo saluto, Giacomo Poretti. Ciao Giacomo, grazie. Buongiorno a tutti quanti. Io ti aspettavo perché mi ricordo che qualche mese fa, prima delle vacanze, mi avevi detto sto scrivendo un libro e mi avevi promesso che saresti venuto. Grazie, perché soprattutto perché hai mantenuto la promessa. Perché i gerani mantengono le promesse. Senti Giacomo, non pago del libro, hai aggiunto una fascetta, leggimela tu in diretta. Devo inforcare gli occhali, eh? Io ce li ho già. Forse quella dei vasi di gerani è davvero l'altezza giusta per sentire la profondità delle radici. Questo scrive Giacomo, la fascetta del libro di Giacomo Poretti, alto come un vaso di gerani, e noi siamo stati tutti alti come un vaso di gerani. E quei tempi, dove eravamo? Chi c'era accanto a noi? Cosa vedevamo? Quali luoghi frequentavamo? Insomma, torniamo piccoli. 800 24 00 24. Se volete intervenire potete come sempre seguirci su Facebook e su Twitter. Noi non siamo soli, caro Giacomo, perché qui in studio con me c'è il dottor Luigi Ballerini, medico, scrittore, psicoanalista freudiano. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, dottore. Ci trasformiamo in vasi. È un bel esercizio. Ma è un bel esercizio, soprattutto dichiaro subito la mia passione per questo libro che mi sono bevuto, anzi mi sono mangiato. Mi ha colpito la questione dell'altezza, perché il libro di Giacomo è tutto scritto ad altezza di bambino, ma l'altezza di bambino è l'altezza degli occhi del bambino. E quello che davvero mi ha colpito è come lui sia riuscito a conservare lo sguardo di un bambino curioso, appassionato della realtà, che guarda tutto e ci permette di vedere la realtà del suo paese, che per me era ad esempio assolutamente sconosciuta, con un'affezione che è quella che ci trasmette, proprio con la capacità del bambino di cogliere il bello che c'è in ogni posto, dove a un adulto invece sembrerebbe assolutamente insignificante. Giacomo, un progetto a cui tu pensavi da tempo, che cosa ti ha dato questa esperienza, questa scrittura, questo tornare vaso di gerani? Devo dire che in realtà non pensavo che questa cosa potesse diventare un libro. Inizialmente, 3-4 anni fa, è stato più un momento intimo, personale, una cosa che mi aveva suscitato la nascita di mio figlio. E avevo cominciato a scrivere, avevo messo lì, come si dice, nel cassetto, no? le consideravo delle riflessioni intime, una specie di diario. Poi, sollecitato a scrivere, ho trovato la forma e ho trovato il modo per farlo. Ma diciamo che tutto quanto è iniziato da quando mi è stato messo in braccio per la prima volta mio figlio. Mi ricordo che, e qui magari il dottore mi può aiutare, curare qualche seduta, no? Mi ha preso un'ansia incredibile con quell'affarino lì di 2,8 kg tra le braccia, e io mi immaginavo che lui fosse ansioso, nel senso che era da qualche secondo al mondo e io mi sentivo che dovevo rassicurarlo, che dovevo dirgli che era capitato in una cosa strana ma anche straordinariamente bella. E allora mi sono ritrovato lì a parlare, dicevo: ah, guarda, correrai, giocherai a pallone, andrai in moto. E mia moglie mi guardava come per dire: ma l'anestesia l'hanno fatta a te o... È vero, però io invito gli ascoltatori a leggere questo libro che è davvero straordinario. Il dottor Ballerini diceva: me lo sono mangiato, bevuto, io me lo sono, è vero, proprio gustato. E ci sono delle parti dei personaggi che tu descrivi, perché noi, ritornando indietro e ritornando bambini nei nostri luoghi, ripensiamo anche ai luoghi che sono proprio fissati nel nostro ricordo, proprio perché abitati da persone speciali. Ci sono alcuni personaggi del tuo libro che veramente io ho amato in modo particolare, ma non volevo dirvi questo, non volevo parlare solo del libro, volevo proprio parlare della lettera con cui si apre il libro, e che è una lettera molto commovente che Giacomo fa al suo bambino, e che secondo me potrebbe essere un esercizio, ma lo chiediamo al dottor Ballerini, che oltre che psicoanalista è anche scrittore, un bel esercizio da suggerire ai padri, perché fermare su un foglio bianco quelle emozioni, quei sentimenti che tutti noi proviamo ma che tante volte non riusciamo a tirare fuori, forse sarebbe una buona cosa. Mi sembra proprio una bella idea. Quando ho letto questo libro e ho letto soprattutto la lettera iniziale, Giacomo lunga vita, ma ho pensato: questo è un libro da lasciare in eredità. Proprio il concetto dell'eredità, ossia cosa lascio a mio figlio, cosa posso lasciare a mio figlio. Posso lasciare quello che sono io, ma magari uno pensa che non è neanche tanto, eppure quello che sono io è quello che abbiamo sentito dire prima, è il concetto dell'introduzione alla realtà. Allora, che un papà riesca a pensare: sei arrivato in un posto strano, ma il posto più bello del mondo, anzi è il mondo, è il più grande regalo che un papà possa fare al figlio. Un posto meraviglioso, quasi indimenticabile. Unforgettable, though near or far, like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me, never before. È vero, ci sono dei luoghi indimenticabili. Qual è il vostro, cari Gerani? 800 24 00 24. E soprattutto, perché Giacomo, Villa Cortese ha dei luoghi indimenticabili. C'è un oratorio, che è il posto più bello del mondo, e poi ci sono i bar. Villa Cortese, come tutti i paesi d'Italia, aveva un oratorio. L'oratorio era un luogo dove i bambini stavano al sicuro, dove potevano giocare ininterrottamente fino a quando non diventava buio. All'oratorio si poteva giocare a calcio, a pallavolo, a basket, quelli più alti, a nascondino, a bandiera, a strega comanda color, a mondo, a celai, alla lotta, al calcio balilla, a rubamazzetto. All'oratorio si imparavano i nomi degli apostoli, chi era re Erode e quanti sono i sacramenti. Nel mio paese c'erano tre bar, suddivisi rigidamente per età. Dalla prima elementare fino ai 16 anni si andava al bar dell'oratorio. Dai 17 ai 39 si andava al bar Viturin, quello con il jukebox. Dai 40 in su si andava al Circolone, perché c'erano 5 campi da bocce scoperti. Il gioco delle bocce era il gioco ufficiale del paese. Giacomo, questi luoghi che animano proprio il racconto del tuo libro, dove tu ti muovevi da piccolo, meno piccolo? Sempre da piccolo, no? Sia da piccolo che da grande, sempre piccolo, no? E poi i bar hanno avuto un'impronta particolare nella mia vita, perché i miei genitori, che facevano gli operai, ma avevano il sogno di avere un bar, una trattoria tutta per loro, e quindi ne hanno gestiti almeno tre nel paese. E il primo che hanno gestito era il Circolone, quello con i cinque campi da boccia, ed era di bocce, ed era d'estate, era un luogo straordinario, perché tutto il paese dai 40 anni in su si trasferiva lì, si mangiavano i panini, si beveva il vino rosso, bianco, era un luogo straordinario. E poi, non so, forse era lo sguardo del bambino, ma forse no, c'erano dei campioni eccezionali, no? Poi ho scoperto negli anni successivi che gli italiani sono anche diventati campioni del mondo di bocce. Giochi a bocce dopo essere non tanto bene, devo dire la verità, non tanto bene, però era, a me piaceva tantissimo vederli, i rituali. Sì, perché è proprio una festa. I rituali erano incredibili, no? Molti di noi si attiveranno proprio nella descrizione di questo. Abbiamo parlato di oratorio, abbiamo parlato di bar. Anch'io ricordo il gioco delle bocce, questi uomini che andavano, si portavano questa confezione, era una specie di valigettina dove avevano valigetta. Era proprio un rito. Dottor Ballerini, luoghi, riti, ricordi? Sì, di nuovo, leggendo il libro, soprattutto questa parte dei bar di Villa Cortese, mi sono chiesto: ma che cosa può dire oggi questo ricordo? Perché potrebbe limitarsi a una marcord, a un fatto nostalgico. In realtà a me ha detto molto. Ad esempio, mi ha fatto simpatia e mi è piaciuta la distinzione dei bar per età, no? Perché ci dice che non è giusto che accade quello che accade adesso, sia della livellazione per età. Adesso assistiamo a dei bambini che sono adultizzati e degli adulti che sono infantilizzati, no? Il fatto che ci fosse, no, questa distinzione segnava le tappe della crescita, per cui ci sono delle cose a 5 anni, poi ci sono quelle da 12, poi ci sono quelle da 19. Ecco, forse questo ricordo di Giacomo ci può dire qualche cosa su come guardiamo i bambini nel loro percorso di crescita. Sentiamo invece che cosa ci racconta Monica da Alessandria. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Io volevo comunicarvi che sono appena uscita dalla libreria dove ho comprato il libro di Giacomo, ma prima di ascoltare la vostra trasmissione, salita in macchina, l'ascolto, e quindi volevo dirvi che anch'io ho scritto una serie di cose che non ho mai avuto il coraggio di pubblicare, da lasciare in eredità ai miei figli. In particolar modo la prima, che ha fatto la cresima quest'anno, ha ricevuto in dono questa lunga lettera dei ricordi della sua infanzia, ma soprattutto di quali sono le radici della sua umanità e della sua unicità. Quindi mi fa piacere leggere Poretti, lo seguo già da un po' di tempo. Sulla stampa, certo. Anch'io veramente lo seguo. Monica, stiamo grazie chiedendo ai nostri ascoltatori di ritornare un po' a Vasi di Gerani e di raccontarci un po' il luogo da dove sono venute, le loro radici, quello che a cui si sentono particolarmente legati. Qual è il suo? Il luogo, anche in questo caso anche il mio, è quello di un piccolo paese e di un piccolo oratorio, di una piccola comunità. Realizzo nell'adultità che il mio attaccamento primordiale, che è stato proprio l'essere preso in braccio, come raccontava prima Giacomo, sì, dalla mamma o dal papà all'inizio, ha portato poi lentamente questa trasformazione in me, l'attaccamento anche al paese, alla mia piccola comunità, e sono sensazioni ed emozioni e sentimenti che devo assolutamente, sento di dover trasmettere. Grazie Monica, grazie per averle condivise con noi. 800 24 00 24. Tu intanto, Giacomo, prendi nota, perché poi alla radice, al ricordo, al vaso di geranio che ti commuove di più, ti diverte, ti fa sorridere, noi abbiamo due libri. Ok. Il mio è qua, non lo mollo, con dedica e fascetta. Denis, dalla provincia di Bergamo, buongiorno. Buongiorno, innanzitutto volevo fare i complimenti a Giacomo che secondo me è un attore eccezionale. Pensavo che volesse Grazie. Fare i complimenti a Luigi Ballerini, a me, ce li faccia un po' anche, anche a noi. Anche a voi. Perché insomma, no? No, Dennis, vada pure. Volevo dare la mia testimonianza, nel senso, io ho 31 anni, sì? Quindi sono giovane, però posso dire che abito in un paesino in provincia di Bergamo, ai piedi dalla montagna, e posso dirle che nel mio paese praticamente tutto è rimasto ancora così, nel senso ci sono ancora i bar dove giovani e anziani, perché giocano a carte, c'è la bocciofila, nel senso nel racconto di Giacomo comunque, per quel poco che ho sentito, perché comunque il libro purtroppo non l'ho ancora comprato. Sì, si può sempre diciamo fare. Che rispecchia, sì, rispecchia perfettamente la mia realtà, diciamo, nel mio paese. Quindi c'è un po' di Giacomo anche in Dennis. Sì, ma secondo me è un po', io non so, il centro, il sud Italia, ma al nord Italia sicuramente ci sono ancora moltissimi paesi che sono ancora rimasti alle tradizioni. Un po' alla Villa Cortese. Grazie Dennis. Giacomo? Due ascoltatori che in qualche modo provano, no, a raccontarsi attivati proprio da questo ritorno, da questo luogo dove tu ci hai portato e da cui poi sei partito. Beh, però mi viene da dire una cosa, no? È ovvio che mi fa piacere sentire questi ascoltatori che fanno riferimento al loro luogo, al loro paesino, però vorrei fare una precisazione. La mia non è soltanto un'operazione di nostalgia, io lo considero così, no? È un atto d'amore per il luogo dove ho aperto gli occhi, dove ho vissuto per tanti anni, però è anche dal paesino in un qualche modo bisogna anche scappare, no? E credo che sia che le due cose debbano essere ben presenti, no? Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo che anche quando non ci sei resta ad aspettarti. Un paese per andare altrove, per lasciarlo, per tornarci, dottor Ballerini. Abbiamo sentito abbiamo proprio fatto leggere da Alessandra De Luca, dalla bellissima voce di Alessandra De Luca, questa frase di Pavese, proprio per raccontare, e ce l'avevamo in scalette, Giacomo è perfetto, sembra un lancio. Potrei lavorare perfetto con voi due. Ma quanto. Proprio un paese, siamo nati lì, ma sono le nostre radici, ma da lì dobbiamo spostarci ed è una bella sfida. Risentiamo Pavese. Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Ci dice che deve esserci un'origine. Poi cosa farcene di questa origine sta a noi, nel senso ci sono anche delle origini da cui a volte bisogna distaccarsi, altre che invece ci conviene abbracciare di più, ognuno ha la sua storia, ma non possiamo negare che ciascuno abbia un'origine e con questa dovrà fare i conti. E quindi agli ascoltatori che ci stanno chiamando all'800 24 00 24, da dove sei nato, dove sono le tue radici, quanta strada hai fatto? Giacomo, tu di strada ne hai fatta abbastanza poca, perché a volte bastano 32 chilometri per andare lontano. Tutto il mio esodo si è svolto nel raggio di 32 chilometri, tra Villa Cortese, Canegrate, Legnano e Milano. Lungo quel tratto dell'autostrada Milano-Laghi è accaduto tutto quello che doveva succedere. E tutte le domande, quelle che riuscivo a pormi, sono state formulate. Sono le risposte che mancavano. Le voci che si sentono dentro sono flebili, disturbate, confuse, incerte. Poi un giorno, sulla carta di identità, alla voce residenza, è comparso Milano. Mi ritorni in mente, dolce come mai, è imbarazzante, no? Interrompere questa canzone che, a proposito di Mi ritorni in mente, attiva chissà quanti ricordi dal luogo d'origine, ci si allontana, si parte per andare più o meno lontano, e noi ne prendiamo spunto dal libro che abbiamo avuto il piacere di leggere, che potete leggere naturalmente anche voi, Alto come un vaso di Gerani. Giacomo Poretti è qua in studio con me insieme a Luigi Ballerini. Dottor Ballerini, Giacomo lo anticipava, non è una nostalgia del luogo che abbiamo lasciato, ma proprio il luogo da cui siamo nati è necessario anche proprio per essere abbandonato. Necessario, e c'è chi lo vuole abbandonare. Prima abbiamo sentito che Giacomo Porretti ha fatto 32 chilometri, non ne ha fatti molti, ma non è questione di quanti chilometri facciamo, perché ho incontrato delle persone che sono andate dall'altra parte del mondo per dimenticare, per lasciare un luogo, ma sono rimaste, un luogo o delle persone legate a quel luogo, ma gli sono rimaste in testa. Allora, in realtà, la distanza che a volte dobbiamo prendere è una distanza mentale. Uh-huh. Una distanza perché addirittura il nostro ricordo può superare la morte, perché ci sono delle persone che magari sono morte che ci restano ancora in testa e siamo lì ancora a rimuginare magari per il male che ci hanno fatto. La distanza, lo spazio, è prima mentale che geografico, per cui a volte bastano 32 chilometri, ma a volte anche due, perché uno prende la distanza e magari dica: io sono io. È un luogo da cui, che tu descrivi, di cui avevamo già parlato in una precedente intervista, è la Colonia, perché è un luogo che anche a me particolarmente... Non quella penale, quella marina o montana. Dove il piccolo Giacomino, bambino linfatico, no? E qua forse vale la pena soffermarsi un attimo, perché secondo me ogni decennio ha la propria sindrome, la propria malattia. Negli anni 60 c'era il linfatismo, molti bambini erano affetti da linfatismo. Cos'è il linfatismo? È quella sindrome non ben definita, quando il bambino è inappetente, un po' stanchino, un po' così, sostanzialmente quando il medico non sa formulare la diagnosi, no? Non sa che pesci pigliare, allora guarda negli occhi la mamma, che poi è ignorante del suo figlio, è linfatico. Ciumbia, no? Cosa bisogna fare? Allora, contro il linfatismo, nei primi anni 60, i medici della pianura padana mandavano i bambini al mare, solo che la sfortuna era che per incamerare lo iodio, che secondo loro era miracoloso, bisognava andare in primavera, marzo-aprile, due mesi addirittura. La prescrizione per me è stata di due mesi, per cui i miei genitori, che non erano Tronchetti Provera o similari, no, hanno dovuto sbattersi per mandarmi in questa colonia a Pietra Ligure per due mesi. 175 chilometri circa, lontani da mamma e papà. Che magone. Farà anche bene lo iodio, ma fa più male stare lontani da mamma e papà. Daniela, dalla provincia di Cremona, buongiorno. 800 24 00 24. Buongiorno. Io ho la stessa, diciamo, fascia d'età, anni 60, sono del 63, e anch'io ho fatto i bei due mesi a Pietra Ligure con l'infatismo. Veramente? Mi scusi, anche lei in cura dallo psicanalista come me? Io perché comunque dica, mi è piaciuto leggere queste righe nel tuo libro, perché veramente mi sono ritrovata la tristezza, mi sono proprio tornate in mente quelle telefonate, che non so se venivano fatte anche da parte tua, con la suora. No, perché non c'era ancora il telefono. Non c'era il telefono. Mi ricordo, un episodio, scusami, che non ho voluto mettere perché mi sembrava proprio troppo, no? Che una volta alla settimana arrivava la posta. Allora la signorina, no? Perché c'erano le signorine, non le suore, dicevano: è arrivata, che c'erano le cartoline postali, allora quelle marroni, senza neanche un'illustrazione, no? Faceva tutto l'appello: Carbone, sono io, Ballerini, io, bene, finita. Poretti, no, non c'è niente, no? Per cui era terribile, insomma, no? Vabbè. Cartolini, adesso mi hai fatto ritornare in mente che mio papà aveva una bella calligrafia, una bella scrittura, la suora faceva i complimenti, ma che bella scrittura che ha tuo papà. E adesso mi hai fatto tornare in mente un altro ricordo, vedi, delle cartoline. Vedi. E poi un altro ricordo che però mi devi confermare, che c'era questa... Perché praticamente avete deciso che eravate quasi compagni di colonia. Sì, tu... beh, abbiamo qualche anno di differenza. Sì, però ma secondo me vi incontravate. Io quando... abbiamo trovato l'amica di Giacomo. Quando io finivo verso gli 11-12 anni, tu cominciavi probabilmente. Ci siamo passati il testimone. No, più che altro che dicevano che ai maschi che facevano tribolare tagliavano i capelli a zero. Quando c'è stato tagliavano mi è venuta la pelle d'oca, vero? Tagliavano i capelli? Tagliavano, cioè, quelli dispettosi tagliavano i capelli a zero. Io non li ho mai avuti a zero, però molto molto molto corti. Cortini. Grazie Daniela dalla provincia di Cremona. Vittorino da Milano, buongiorno. Buongiorno. Non c'è più Vittorino, forse è caduto. Colonie, ma anche bambini. Giacomo ha praticamente incontrato via radio una sua possibile compagna di colonia, ma io vorrei parlare anche delle persone, perché i luoghi ci rimangono proprio nella nostra memoria. Forse da un luogo ce ne andiamo o vorremmo tornare in un luogo. E molto dipende dalle persone che si muovono in quel luogo. E quante persone ci sono in questo libro? Sono davvero è una galleria di personaggi. No, è scorretto dire personaggi, è una galleria di persone, perché proprio sono descritte brevemente. Vedi come è delicato, vedi come non persone, non personaggi, persone. Ma tutto tondo. Ed è bello questo nesso che c'è tra luogo e persona, perché è la persona poi che rende quel luogo speciale per noi. Tant'è vero che quando andiamo in giro ci capita di dire: sono stato qua con la mia fidanzata, con mia moglie, con mio figlio, la prima volta che sono passato di qua ero con questa persona. In realtà i luoghi sono tutti uguali, sono le persone che ce li rendono speciali, e questo libro proprio ce lo comunica, perché è pieno di questi ricordi. Vittorino, buongiorno, l'abbiamo ripescata, ci chiama da Milano all'800 24 00 24, benvenuto. Sì, buongiorno, complimenti a tutti. Io, vede che Vittorino è stato attento, Vittorino è stato attento, perché Denis naturalmente aveva fatto subito i complimenti a Giacomo, e io apprezzo molto Vittorino, che ha incluso anche me, ballerini. Grazie Vittorino. A parte la condivisione in toto per tutto quello che è stato detto fino adesso, il mio intervento era per confermare e affermare quello che è stato detto all'ultimo minuto. Il luogo è importante, ma che caratterizza il luogo sono le persone, perché non sempre ci si deve allontanare da un luogo per sentire la mancanza. Tante volte basta non avere più il rapporto con la persona nello stesso luogo. Certo. E quindi il paese, anche nelle città, delle città di una certa dimensione, questi rapporti personali ci sono, e queste caratterizzazioni dei luoghi, dei quartieri, degli oratori, dei luoghi di incontro, eccetera, così rimangono e ci sono, e sono nella vita per tutti, certo, per sempre, per tutta la vita. Però tante volte il distacco dal luogo è più grave quando si ha il distacco dalla persona, del luogo. Insomma, luoghi e persone sono, non do la parola a Giacomo perché sta soffocando, ma si riprenderà tra poco. I luoghi influenzano le persone, e c'è questo intreccio, e cambiano anche le nostre relazioni. A Milano si vive in verticale. Se si abita in verticale, è più difficile incontrarsi. Magari due vorrebbero incontrarsi, ma è molto probabile che uno stia scendendo mentre l'altro è appena salito. Ci si potrebbe incontrare in ascensore, ma in ascensore si incontrano sempre quelli che non si vuole incontrare. Se abiti in orizzontale, quando uno esce e l'altro entra, è molto probabile che ci si incontri. A Milano si vive in verticale, e se hai voglia di vedere un amico, devi prendere l'appuntamento. Non si può passare sotto casa e suonare il citofono. A Milano il Galateo non lo prevede. Ciao, sono Giacomo. Ti ho invitato a cena? No. Dovevamo vederci per altri motivi? No, passavo di qua e ti ho suonato, così, per un saluto. Mandami una mail domani. Guardo l'agenda e vediamo di stabilire per una sera della settimana prossima, Ciao. Giacomo, orizzontale e verticale. Sì, è vero. sono stato almeno per 3 decenni in questo paesino dove si viveva in orizzontale, sì, no? Certo. Già uno che aveva la casa al primo piano sembrava che se la tirasse un po', diciamo la verità, no? E per davvero mi sembrava che i rapporti fossero più facilitati, non che fossero migliori, perché questo secondo me consente una facilità di mettersi in relazione. Poi la profondità, la bellezza delle relazioni dipende da altre cose. Certo che a Milano però ho constatato per davvero che è molto più difficile incontrarsi spontaneamente, ci si deve dare per davvero l'appuntamento, anche tra amici molto, molto fraterni, e questa è una cosa che mi ha sempre fatto molto soffrire, per cui o devi avere la fortuna di abitare vicino a delle persone a cui ti affezioni, simpatiche, ma anche se abitano al piano superiore non è che si può andare su. Anche tra gli abitanti dello stesso condominio l'orizzontalità non viene tanto bene, perché c'è sempre comunque l'ascensore, o hai la fortuna di avere il tuo proprio nello stesso pianerottolo. Dottor Ballerini, verticale e orizzontale, a lei come psicoanalista che cosa fa pensare? Ma mi sembra una bella metafora innanzitutto. A me piace l'idea, allora facciamo così, di necessità e virtù. L'idea del darsi un appuntamento è bellissima, perché implica che io ti aspetto e tu ti presenti. È proprio l'idea del abbiamo scelto di incontrarci, lo vogliamo fare insieme, per cui c'è anche tutto un positivo in questo. Mi è piaciuta tantissimo la battuta, che non è una battuta, mandami una mail, perché effettivamente accade così. Io credo che di peggio ci sia forse solo teniamoci in contatto, che è proprio fatto e per quello è proprio fatto per quando non lo vuoi vedere il dici sta cosa è proprio fatta per esatto, teniamoci in contatto. Dobbiamo dare la parola a Fabio che ci chiama da Brescia, non dobbiamo, ma ci fa piacere. Benvenuto Fabio. Buongiorno. Se lei è molto rapidino. Rapidissimo, infatti è un sunto di quello che ho detto finora, nel senso che io abitando in città a Brescia, la mia esperienza del vissuto era poi sulla vacanza estiva, ridotta ai 2 mesi con i nonni, nell'unico paesino magari sperduto in montagna, un campanile, un campo di bocce, con tutta quella gestualità che parlavate prima, e il ricordo è indelebile quello. E però era evidente questo discorso di rapporti umani, in quanto l'ultimo ragazzo che abitava in fondo al paese passava per in mezzo al paese chiamando tutti gli amici portone per portone per arrivare al parchetto della chiesetta, unica chiesetta presente nel paese, dove si passava la giornata giocando con praticamente nulla, e il tempo, il sole e quindi il tempo in generale scandiva la giornata. Però vedi come, grazie Fabio, mi piace questo racconto. Un bel racconto, ci dice però che se non siamo facilitati in città, allora vuol dire che davvero lo vogliamo e dobbiamo volerlo. Allora vuol dire che ad esempio ai bambini creiamogli le occasioni di contatto, favoriamo che la casa sia aperta, perché se no il rischio è che, anche qua non abbiamo tempo, ma quanto reale c'è in questo libro e quanto poco di virtuale. Certo, e quanto fa bene al bambino il reale, e allora creiamole le occasioni. Allora, Alto come un vaso di gerani di Giacomo Poretti. Giacomo mi ha detto che ci tiene a dare il libro alla sua compagna di Colonia, Daniela. Compagna di sofferenze. Compagna di sofferenze di Colonia. E allora diamo al dottor Ballerini la possibilità di scegliere il secondo libro. Lui regala i libri tuoi, vedi com'è. È anche questo. Questo è bello, no? Vittorino, Fabio. Ma io direi diamola a Fabio. L'ultimo ascoltatore che ci ha chiamato. Diamola a Fabio. Allora, grazie per averci seguito. Giacomo, alla prossima, quando tu vuoi. Grazie, noi siamo felici. Siete stati generosissimi e gentilissimi. Un bacio. Commosso, Grazie a Luigi Ballerini, a Giacomo Poretti, Laura Vanossi in redazione, Matteo Comes in regia, la parte tecnica. Per oggi è tutto, a domani.